Avvicinandosi l'ora di un possibile avvio del tribunale ad hoc per i crimini commessi in Cambogia contro l'umanità, l'ex presidente della Cambogia Khmer Rossa, Khieu Samphan, ha cominciato a rilasciare interviste, a ricevere giornalisti, a mettere in moto, insomma, una potente macchina mediatica che rilanciasse, più che una tesi revisionista o negazionista, l'idea che lui non c'entrava per niente e non ne sapeva nulla di quel massacro che costò la vita a 1, forse 2 milioni di persone. La scoperta del genocidio lo avrebbe fulminato mentre guardava un film sulla prigione del massacro di Tuol Sleng, ma mentre cascava dalle nuvole forse correggeva le bozze del libro che le edizioni Harmattan hanno fatto uscire a Parigi in febbraio. La storia recente della Cambogia e le mie prese di posizione è un agile saggio di 170 pagine, rapida lettura al costo di 15 euro, ma da qualche giorno il libro si può comprare anche a Phnom Penh per poco meno di 3 euro. La tesi di Khieu è che l'universo concentrazionario cambogiano era una realtà, ma che lui non lo sapeva. Non era un Pinochet che decideva e nemmeno un Priebke che eseguiva. Come la metterà il tribunale di Phnom Penh che dovrà chiamarlo alla sbarra? Dalla sua c'è il tempo, la Cambogia non ha ancora un governo, le elezioni sono andate in qualche modo con sospetti brogli e ribellioni del neonato Parlamento e in fondo il tribunale è cosa scomoda per tutti, soprattutto per gli ex protettori degli Khmer Rossi, cinesi, americani, inglesi, e l'ONU ha altro a cui pensare. Il tempo gioca per Samphan, l'uomo che era capo di un paese ma non ne sapeva nulla. Manuele Giordana, lettera 22 a Misnet.